Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Big World. Io sono qui insieme ai nostri amici. Sono Stefania e oggi siamo alla seconda puntata del Popolo di Barabba, pensare con la propria testa. Il mio argomento, lo sapete, è il filo conduttore e l'educazione. E pensando a quello che avrei potuto condividere con voi oggi, mi viene in mente un piccolo aneddoto. Cioè, l'altra sera ero a cena con degli amici e a un certo punto una ragazza, una signora anzi, mi disse, si parlava di, naturalmente, di educazione, di insegnanti, di professori, mi disse: ma queste maestrine la devono far finita con tutti questi, queste esigenze che hanno. Ecco, il solo fatto di sentirla parlare, di sentirgli esprimere la parola maestrina, mi si sono rizzati i capelli, anche se ne ho pochi. Se penso al fatto che la maestra, soprattutto la maestra della scuola dell'infanzia, la maestra della scuola primaria, sono i perni, è la base che regge il nostro mondo, e chiamarla maestrina veramente la trovo una cosa riprovevole. È vero, ci sono alcune insegnanti, ne abbiamo viste purtroppo nel nostro corso di progetti nelle scuole, che oggettivamente avrebbero bisogno di ripassare la loro lezione di insegnanti, però ci sono tante altre insegnanti che sono, a mio avviso, oggi delle eroine, degli eroi, perché avere a che fare con una classe di 20 bambini in un contesto sociale così complicato è davvero da persone molto capaci. Questo per dirvi che purtroppo questa parola maestrina la sento dire troppo spesso. Ho l'impressione, come ha scritto in un libro Alice Miller, era una pedagogista, lo è tuttora, non credo sia morta, che negli anni 60 ha scritto La pedagogia nera. Pedagogia nera mettendo in evidenza le biografie di quello che fu Hitler e anche di altri personaggi come Hermann Hesse. E in questo libro spiegava benissimo come l'educazione infantile, l'educazione in famiglia, l'educazione a scuola possa poi influire su quello che sarà il personaggio finale, cioè il personaggio adulto. Sappiamo tutti chi è stato Hitler, sappiamo tutti chi era Hermann Hesse, quindi. E Alice Miller, alla fine del suo saggio, scrive una frase che mi ha fatto davvero tanto riflettere, mi fa riflettere anche ora. L'opinione pubblica è ben lontana dal comprendere queste relazioni, queste dinamiche. Ed è vero, uno che si permette di chiamare maestrine in maniera quasi dispregiativa e sminuire l'importanza invece vitale che hanno queste persone è davvero da criminali. Io valorizzerei l'insegnamento, come lo fanno in tanti paesi d'Europa, soprattutto nel nord Europa, lo valorizzerei ancora di più e starei ancora più attento alla scelta delle persone che intendono diventare insegnanti, che intendono diventare professori, facendo addirittura, io almeno lo metterei, facendo addirittura dei test di ingresso, perché fare l'insegnante, secondo me, oltre al bagaglio professionale di studio che uno può avere, deve avere anche un bagaglio personale, strumenti personali importantissimi, quali il saper ascoltare, quali l'empatia, il comprendere che davanti non hai una classe, ma hai Giovanni, Valeria, Daniele, hai questi singoli bambini che hanno bisogno di te e tu gli devi dare quello di cui loro hanno bisogno per crescere. Quindi io la farei questa selezione, perché di insegnanti, come ho detto prima, eroine ce ne sono tanti, però c'è anche qualcuno che non fa il suo dovere fino in fondo. E siccome questo è un argomento molto importante, ecco, ai nostri governanti mi piacerebbe poter dire: riflettete su questo, perché Alice Miller aveva ragione. Grazie per avermi ascoltato. Se c'è qualche insegnante che vuole condividere appunto la sua esperienza, le sue opinioni, o mi vuole o mi vuole contestare, cioè mi farebbe veramente molto piacere. È un argomento, credo, molto vasto. Ecco, grazie, grazie a tutti.